Poesia inedita di Luca Giambonino, direttore della rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi. Ancora ti vedo. Ancora ti vedo negli angoli della casa, sdraiato come una sfinge bianca. Ancora ti vedo con la coda dell'occhio muoverti inoculato alla ricerca di un comodo posto in cui sdraiarti. Ancora sento il tuo pesante fiato com'era alle volte, caro cane mio. Era il mio cucciolone, anche se ormai vecchio, lo verrei ancora. Ricordo ogni istante che abbiamo passato insieme, ricordo quando abbaiavi alla porta e ricordo i nostri abbracci. Mi mancherà il tuo bacio all'orecchio mio e il tuo consolarmi quando ero triste. Fosti per me il migliore amico che avevo, l'amico che sapeva capirmi a colpo d'occhio. Ci consola il pensiero che hai vissuto una vita serena e allegra per quanto possibile. Ci consola che ora sei lassù, da qualche parte, a scodinzolare fra gli angeli.